siamo adesso dall'altra parte del mare, siamo in collegamento telefonico con Atene, con un compagno che sentiamo spesso da questi microfoni. Quindi pronto, ci sei? Sì, ci sono. Perfetto, allora insomma, in Grecia stanno accadendo diverse cose, ne vorremmo parlare stamattina con te. Innanzitutto questa questione della elezione del Presidente della Repubblica e delle implicazioni costituzionali che prevedono appunto, se dopo il terzo scrutinio nulla di fatto, si va alle elezioni, e qui si apre ovviamente le elezioni politiche, uno scenario di cui vorremmo parlare con te. Certo, per il 17, cioè mercoledì prossimo, c'è la prima elezione. Nella seconda elezione del Presidente votano tutti i deputati, due terzi dei deputati del Parlamento greco, di conseguenza servono 200 voti per essere eletto il nuovo Presidente della Repubblica. La prima elezione sarà il 17, la seconda il 23. Come il governo non ha la possibilità, anche se ci sono tanti movimenti di pagamento di deputati, di cose che si parlano sui giornali, ma non riusciranno assolutamente a arrivare a 200 deputati, poi c'è il 29, alla terza elezione, possono votare tutti e il presidente viene eletto con 180 deputati. Se riusciranno ad avere questi 180 deputati, allora verrà eletto il Presidente della Repubblica e non ci sarà problema di fare le elezioni anticipate. In caso che non riusciranno a eleggere il nuovo Presidente della Repubblica neanche alla terza elezione, che sarà il 29, e allora entro una settimana, entro 10 giorni, il Presidente della Camera deve sciogliere il Parlamento e indice elezioni, le quali verranno entro un mese, cioè praticamente verso la fine di gennaio in Grecia ci saranno elezioni per il nuovo Parlamento. Pronto? Pronto, mi senti? Certo. Innanzitutto come stai? Grazie, bene. Bene, bene. Chiarisco una cosa, visto che parliamo alla radio. Sì. Non è facile stare bene in Grecia in questo momento, perché vi ricorderò che ci sono 1.432.000 disoccupati, ci sono gli ospedali che sono proprio in disarmo, c'è la sanità che è adatta proprio a rotoli, c'è anche la pubblica istruzione che anche essa va a rotoli, e di conseguenza con questa storia dei moratori sono la Grecia è proprio a ginocchio. E così come so che tu segui anche per quanto puoi la situazione italiana, verrebbe certo da dire: se Atene piange, Roma non ride, insomma, no? Perché sì, lo so bene, ho letto anche la Repubblica, ecco, per quello che riguarda Roma, cioè Roma e l'Italia in genere, insomma, certo. In genere, sì, ho letto per lo sciopero generale dell'altro ieri, e anche in Italia vogliono diminuire le pensioni, sì, vogliono fare nuove leggi per quello che riguarda il lavoro, eccetera, eccetera, cose che noi le abbiamo avute negli ultimi anni, e dal 12 in poi praticamente quotidianamente ci diminuiscono le pensioni, il minimo dello stipendio è arrivato a 400 euro al mese, 430 euro al mese dai 750 che era prima, eccetera, eccetera. Di conseguenza capisco bene che anche da voi la situazione va in questi sensi qua. Esatto, io quello che volevo, insomma, un tuo parere era intanto se sei in grado di spiegare questa regola che lega l'elezione del Presidente della Repubblica alle elezioni anticipate. Ovvero, per noi in Italia sembra una cosa strana, probabilmente non ci sia un altro paese europeo che in caso di mancata elezione, di mancato accordo sull'elezione del Presidente della Repubblica, preveda lo scioglimento del Parlamento. E, certo. Ecco, sai dirci come mai questa particolarità della legislazione greca, se ha delle motivazioni in origine, qualcosa, insomma? Ti spiego. Fino al 1974 noi non avevamo un Presidente della Repubblica, praticamente dal 1974 è stato eletto, cioè dalla fine della dittatura, in pratica. Sì, subito dopo la dittatura i nostri magistrati hanno fatto una legge a proposito del Presidente della Repubblica, il quale però non ha la forza, cioè è un personaggio che non comanda in Grecia, viene eletto direttamente dal Parlamento e non dal popolo, e di conseguenza non ha poteri se non a firmare o non firmare i decreti legge. Certo. E questo che abbiamo visto in questo ultimo periodo, e c'è anche il rammarico della gente di democratica, eccetera, eccetera, che avevamo un Presidente della Repubblica, il quale era democratico a parole, eccetera, eccetera, però non ha mai bloccato una legge che veniva imposta dall'Europa e dalla Troica, sì. Dal Fondo Monetario Internazionale. E di conseguenza tutto passava liscio e loro facevano le leggi in modo che pagasse sempre la gente e non i potenti. E quindi, insomma, diciamo, riveste questa, alla luce della crisi e di quanto è avvenuto negli ultimi anni, riveste una particolare importanza, perché tu dici, insomma, e penso in questo interpretando un sentimento diffuso tra la popolazione greca, almeno il Presidente della Repubblica si poteva rifiutare di firmare certe leggi, insomma, negli anni passati. Ma certo, certo. Poi abbiamo visto in quest'ultimo periodo una cosa tremenda, ragazzi, che si tratta di un ragazzo, il quale Nikos Romanos, il quale ha fatto una rapina in una banca del nord della Grecia insieme ad altri, no? Lui aveva 15 anni quando nelle sue mani è morto Grigoropoulos. Vi ricordate nel 2008, sì, quando è morto sto ragazzo da una pistoletta, da due pistolette? Alexis, sì, come no, come no. Questa cosa qua potete immaginare come ha influenzato questo ragazzo qua, no? Come ha influito nella sua psiche. Questo ragazzo qua ha fatto una rapina, poi in carcere ha studiato, è riuscito a entrare nell'università greche. Secondo l'articolo 16 della Costituzione aveva diritto di seguire le lezioni all'interno dell'università, e c'è stato per 30 giorni un rifiuto praticamente dal governo, ma un rifiuto in un modo pazzesco, cioè la gente che seguiva i televisori, le radio, i giornali, eccetera, eccetera, erano proprio per questo ragazzo qua per 30 giorni chiedeva di dargli il diritto di studiare con uno sciopero della fame che l'ha portato a 40 kg, e l'ultimo giorno che ha cominciato a fare anche lo sciopero della sete, praticamente quando poteva morire, c'è stato nel Parlamento una votazione praticamente unanime per mettergli un braccialetto e poterlo fare andare a seguire l'università. Cioè, vorrei dire, anche in queste cose proprio molto molto delicate, no? Sulla vita di una persona giovane di 21 anni, di 20 anni, quanti anni ha sto ragazzo, il Presidente della Repubblica non è riuscito a dare una grazia, a fare qualcosa, non lo so. Ecco. Senti, tornando viceversa al clima che si respira in previsione di questa possibilità di andare alle elezioni anticipate, qui da quel poco che si legge sulla situazione greca, tutti quanti hanno paura, e tanta paura che insomma fuga di capitali, la borsa di Atene crolla, l'effetto trascinamento, insomma si annuncia un disastro per tutta Europa, perché tutti quanti hanno paura che vinca Syriza. Ecco, secondo te sono fondate, sono, ovviamente sono tutte considerazioni strumentali, ma il fatto che Syriza possa veramente vincere le elezioni politiche è fondato come valutazione, oppure e fa parte di una campagna allarmistica? È ovvio che fa parte di una campagna larghissima, e si è visto anche nel 2012, nelle ultime elezioni. Scusa? Sì, nelle ultime elezioni, ricordavo anch'io. Nelle ultime elezioni c'è stata una campagna che mirava nella paura della gente. E in questo periodo, da quanto si è deciso di far votare, le sedute ha perso il 21%, non so se ve ne rendete conto. In più c'è stata Juncker, un altro personaggio dell'Europa democratica, no? Juncker, sì, il quale è intervenuto nella situazione politica greca, parlando che se viene Syriza tutto va male, non avranno i greci i soldi per pagare le pensioni e tutte queste cose qua. Lo stesso, basta dirvi che lunedì o martedì viene ad Atene Moscovici, che non riusciamo a capire perché viene per dare una mano a sto cavolo di governo, no? Certo, e viene a dire ai greci, dicono, sì, tutta sta storia sulla paura della gente, che non avranno i medicinali, che non avranno i soldi, lo stipendio, non avranno i soldi per gli stipendi dei lavoratori nel pubblico impiego, eccetera eccetera. Ma queste sono favole, queste ce le esprimevano nel 2012. E poi la Grecia per 5-6 mesi non aveva preso soldi dalla Comunità Europea in quel periodo lì, dopo le elezioni, eppure gli stipendi si pagavano, nelle farmacie c'erano i medicinali, problemi non ce n'erano, ma creano questa paura perché non vogliono perdere il potere in Grecia. Però nonostante questo, insomma, sembra che invece Syriza nei sondaggi sia in testa, cioè ci sia la possibilità di questa vittoria che potrebbe cambiare le cose, perché poi ricordiamolo, Syriza ha parlato di una rinegoziazione del debito, mentre poi attribuiscono appunto decisioni catastrofiche, uscita dall'euro e cose del genere, di cui Tsipras non ha parlato mai. No, non ha parlato, effettivamente non ha mai parlato, e oggi parlava a Creta, parlava a Heraklion di Creta, ho seguito il suo discorso, e diceva effettivamente che noi non abbiamo rifiutato di pagare, non lo so, le cose giuste, ma pagare gli interessi degli interessi, eccetera eccetera. E quanto mai gli europei hanno pagato a noi? Scusate ragazzi, ma questa è una cosa che fa rabbia. I tedeschi, quando sono venuti in Grecia, hanno rubato la banca greca, hanno preso l'oro della banca greca, hanno firmato che prestavano tutti i soldi che si sono prestati, ci hanno mai dato una lira. Certo, è così. Nel Parlamento europeo ci sono i deputati greci del Syriza che hanno parlato di queste cose, e questa cosa qua ammonta a 800 miliardi. Quanto mai ci hanno dato questi soldi? È giusto sottolinearlo. E tu la vedi possibile, insomma, questo successo di Syriza? No, io vedo che a parte tutta la guerra che fanno a Syriza, che a parte tutta la compravendita dei deputati per essere votato il presidente, perché è entrata anche la magistratura adesso a vedere cosa c'è dietro questa cosa qua, eccetera eccetera, capite bene che non credo, se non prendono i voti dei fascisti, perché c'è anche questa possibilità qua, per mantenersi nella poltrona può darsi che alla fine riescono a convincere i nazifascisti che sono in carcere per la costituzione di banda armata, riescono, può darsi che riescono, se vengono interpretati, a votare per il Presidente della Repubblica. Soltanto così riescono ad avere 180 voti, ma i conti che si fanno dei vari deputati che dicono io voterò, io non voterò, eccetera eccetera, capite bene che non riescono ad avere più di 170 deputati. Va bene, allora su questo argomento sicuramente ci risentiremo quando ci saranno le votazioni. Io volevo passare adesso a un'altra questione, quella dei rifugiati siriani che sono da diverse settimane a Piazza Sintagma e di cui non parla quasi nessuno qui in Italia, a cui non viene riconosciuto lo status di rifugiati. Ci vuoi parlare anche di questo? Certo, erano 300 300 emigrati che sono emigrati di guerra, chiarisco la faccenda, cioè non sono emigrati di lavoro, sono persone sradicate dalla loro terra che vengono qua pagando una barca di soldi ai trafficanti di vite umane, vengono qua con il rischio di perdersi nell'Egeo, ci sono migliaia che sono morti nel mare dell'Egeo, e si qua sono arrivati ad Atene e si sono radunati nel Piazza Sintagma da più di 20 giorni nella pioggia con i bambini piccoli, facendo anche lo sciopero della fame. Sono stati nell'ultimo periodo, ci sono stati in tanti a dargli il coraggio e la loro adesione alle loro azioni, eccetera eccetera. Abbiamo saputo ieri pomeriggio che il comune ha dato a loro i vari alberghi del comune, proprietà del comune, posti per dormire. Ha portato anche i pullman lì, li ho visti con i miei occhi, che caricava della gente per portarli agli alberghi del comune, però non so se tutti hanno accettato. Stamattina non sono passato di là, non posso dire che hanno accettato tutti. Ho visto ieri comunque che in tanti sono entrati in un pullman del comune per andare negli alberghi. Senti, cioè, perché fra l'altro chiariamolo, loro non vogliono rimanere in Grecia, loro sono di passaggio, no? Nella Grecia, certo, diretti verso il nord Europa, e quindi chiedono, c'è un problema, credo, chiamiamolo burocratico, ma insomma è politico, per cui chiedono, diciamo, questo status di rifugiati, ma in realtà poi vogliono andare nel nord Europa, dove da questo punto di vista le leggi sono, non so, un po' più corrette. Sì, però vi ricordo che i nostri diciamo ministri hanno votato la Dublino 2, no? Che ogni rifugiato che viene in un paese deve restare in quel paese lì, che tutti i soldi che prendono i greci per mantenere qua tutte queste persone, chissà dove vanno a finire, come anche a Roma, come da noi, sì. I vari del comune di Roma i soldi di queste persone qua. È ovvio che non possono dargli fogli di carta per andare nei paesi del nord. È ovvio che loro sono venuti in Grecia perché è la porta più vicina verso l'Oriente o dell'Europa dall'Oriente, per poter andare nei paesi del nord dove la vita per loro è più umana, è più dignitosa, è una vita, insomma, che viene riconosciuto come una persona. Invece qua in Grecia cosa vengono a fare? Se vi dico che ci sono 1.431.032.000 disoccupati, quelli dichiarati disoccupati, capite quanti altri non hanno un lavoro, hanno un lavoro regionale, cioè d'estate con i turisti eccetera eccetera, e che riescono a malapena sopravvivere. Se sapesse quante persone quante case non si riscaldano in Grecia, quante persone cercano nei cassonetti della spazzatura per poter mangiare, quante persone, ma migliaia di persone che vanno al comune e alla chiesa per avere un piatto caldo, fanno la coda per mangiare. Mangiare, ragazzi, nel 2014 ci sono persone che vanno a mangiare facendo la coda nel freddo, nella pioggia, per avere un piatto dal comune di Atene o dalla chiesa. Anche quella chiesa cattolica, ho visto la Caritas, che ha una sede nel centro, che vanno soprattutto immigrati dall'Africa. Ho visto delle code paurose che vanno lì soltanto per avere un piatto da mangiare. Questa è la realtà greca. Senti, un'ultima domanda, i fascisti come si stanno muovendo adesso? I fascisti dopo la morte di Pavlos Fissas e dopo il praticamente l'apertura dei processi che si sono che praticamente non si sono fatti ancora, però hanno in carico un mucchio di penalità, si sono spariti dalla circolazione in Parlamento, i loro parlamentari parlano come i fascisti sempre, però in piazza non si vedono per niente. Insomma, per niente, proprio. Questa è una buona anche notizia. Perché io vivo nel Agios Padeleimon, nella zona da dove sono partiti, e praticamente qua vedi immigrati che si spostano, che vivono qua tranquillamente come prima, eccetera, eccetera, ma non c'è nessuno che li può disturbare. Beh, insomma, ricordiamo quanti ne sono stati uccisi, no? In passato, insomma, nei tempi recenti, ma proprio da queste squadracce, sì. E certo, presi a bastonate e così via. Certo. Ok, va bene, Tasso. Allora io ti ringrazio e sperando di rivederci presto, ti saluto e ci risentiremo. Grazie, speriamo di vedere cambiare qualcosa in Grecia, perché sarà anche un cambiamento per l'Europa. Eh sì, di questo hanno paura, infatti è questo un po' che ha fatto muovere sì. Giuncare e probabilmente anche Moscovici. Va bene, allora a ciao, presto. Ciao Tasso, ciao. Ciao, grazie, ciao. Ondarossa.info. Scarcerando 2015, l'agenda contro ogni carcere giorno dopo giorno, perché di carcere non si muove più, ma neanche di carcere si viva.